come una vipera uccide piano. Così sono solito mio amaro, solo provarlo a degustare insieme all'amaro, solo bere insieme raro. Come una vipera uccide piano. Così solito mio amaro, solo provarlo a degustare insieme all'amaro, solo bere insieme raro. Non è lo Chanel che pulisce, dice storie storisce, alimenti insieme piccoli aspetti, c'è certi effetti, non sono tanti a spostare, solitario alcuni eventi, contro vulcanti, di ballanze, di finte onestà, studesti, vomiti funesti, vomiti funesti, ai venti, contro vulcanti, di finte ballanze, di finte onestà, finti onesti. Come una vipera uccide piano. Così sono solito mio amaro, solo provarlo a degustare insieme all'amaro, solo bere insieme raro. Come una vipera uccide piano. Così solito mio amaro, solo provarlo a degustare insieme all'amaro, solo bere insieme raro.